l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa. 99 giorni mancano alle elezioni europee, che sono un appuntamento importante. Perché? Perché è la volta buona. Queste elezioni, forse più di ogni altra nel passato, potranno incidere veramente sul percorso europeo, un'Europa che fa parte sempre di più della nostra quotidianità, e noi cerchiamo con il nostro programma di raccontarle le tante facce dell'Europa senza nascondere quelli che sono i punti critici, quelli che sono i problemi, ma cerchiamo anche di enfatizzare quelle che sono le possibilità, quelle che sono le opportunità. Un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee. Le coordinate per trovarci, i nostri portali, euronetplus.eu, con tutti i dossier in tante lingue diverse, oppure radio24.it, dove c'è un ampio spazio dedicato all'Europa. Invece le piazze virtuali, social, Twitter e Facebook, chiocciola Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia Bacheche, che cerchiamo di aggiornare minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo da San Valentino. I love you. Questa settimana, la settimana di San Valentino, la rappresentanza in Italia della Commissione europea ha lanciato l'idea di postare foto e storie di coppie europee su Facebook. Chi si è conosciuto in Erasmus, chi si è conosciuto durante un progetto Leonardo, chi lo ha fatto lavorando per le istituzioni europee. Pagina che rimarrà aperta tutta questa settimana, perché così, giocando con l'amore, si vuole sottolineare, ricordare quanto sia un valore assoluto la libera circolazione, quanto sia facile andare a studiare all'estero, quanto sia facile andare a lavorare all'estero, ma quando anche sia facile potersi innamorare, poter avere una vita comune al di là dei confini. Tante storie, ne abbiamo scelta una perché ci sembrava rappresentativa e ci piaceva comunque portare così anche a voi uno di questi emblemi dell'Europa unita. Con noi c'è Elisa. Ciao Elisa, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Ciao Elisa. E, lascio a te raccontare la tua storia, chi sei e chi siete. Io sono una ragazza italiana di Piacenza e il mio fidanzato è un ragazzo tedesco di Stoccarda, e ci siamo conosciuti in Erasmus ad Ankara a cavallo fra il 2011 e il 2012, e io ero all'ultimo anno di laurea triennale in Bocconi, mentre il mio ragazzo era all'ultimo anno, al terzo anno di laurea triennale in economia all'Università di Mannheim. Mm-hmm. E quindi ok, un'occasione comune, l'occasione di incontrarvi, l'occasione di conoscervi, di frequentarvi, ma l'Europa per voi è stato anche qualcosa d'altro, credo sia stata l'opportunità di avere, costruire una vita insieme. Sì, esattamente, perché dopo finito l'Erasmus siamo tornati nei paesi di origine, ma non ci piaceva essere distanti, e io ho finito la triennale a giugno dello stesso anno dell'Erasmus, e ho deciso di iniziare a un percorso di stage, e ho deciso di andare io in Germania, perché fra i due paesi la Germania in questo momento è quello che offre le opportunità migliori, e quindi ho deciso di iniziare a fare domanda di stage in Germania, e è stato molto semplice, perché basta appunto fare domanda online alle aziende, non c'è nessun bisogno di permesso di lavoro, ho visto, quindi nessuna preoccupazione, e ho iniziato il mio percorso in Germania. Uh-huh. Adesso, e quindi è stata l'occasione di essere più vicini. Certo, adesso quindi vivete in Germania, e come va con la lingua? Sto studiando il tedesco, perché quando ci siamo conosciuti io non parlavo tedesco, il mio ragazzo non parlava italiano, ma entrambi stiamo studiando le rispettive lingue, e per fortuna ci sono lavori in Germania dove appunto si parla prettamente in inglese, quindi non è stato un problema per ora, però sto cercando di migliorare la mia conoscenza della lingua. C'è chi dice, scherzando, ma anche non troppo, insomma, che l'Erasmus in questi 20 anni è stata una grande agenzia matrimoniale europea, perché ha dato veramente occasione di incontro a migliaia di ragazzi e ragazze. Per te l'Erasmus cos'è stato? Hai un tuo slogan? Puoi farci un tuo promo sull'Erasmus? Perché consiglieresti a uno studente di vivere questa esperienza? Beh, Erasmus è un'esperienza fantastica perché ti permette di essere in contatto con culture di ogni paese, perché noi siamo andati in Turchia, ma poi ci siamo ritrovati con studenti da tutto il mondo, da Est, dall'America, dall'Europa, e quindi è stata veramente un'occasione bellissima per entrare in contatto con culture diverse e anche con... mi ha dato l'opportunità poi di anche capire che mi piaceva vivere all'estero, che non è così difficile stare lontano da casa, ed è anche stato quello che poi mi ha convinto a iniziare a lavorare e poi studiare in Germania. E anche farmi sentire più europea, perché appunto ho iniziato a sentire che c'è questa appartenenza all'Europa. Grazie davvero Elisa, ricordiamo facebook.com/Europa in Italia, che è la pagina ufficiale della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dove ancora per la prossima settimana ci sarà la possibilità di postare le proprie storie oltre confine. Grazie davvero, ciao Elisa, in bocca al lupo per la vostra bella avventura personale e professionale. Ciao. Adesso un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, e poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Una volontaria per Start to Vote Europe a Bucarest. L'associazione Joint cerca una volontaria per un servizio volontario europeo a Bucarest della durata di 10 mesi. Il progetto su cui si dovrebbe lavorare è Start to Vote Europe, per sensibilizzare i cittadini più giovani dai 17 ai 22 anni all'importanza del voto, anche in vista delle prossime consultazioni europee di maggio. I volontari organizzeranno dibattiti, corsi sul tema dei diritti civili, nelle scuole, nelle università e nelle associazioni, utilizzando anche sistemi di educazione non formale, il teatro, il gioco e i social network. Per tutti i volontari, vitto, alloggio e formazione sono pagati e si rimborsano il 90% delle spese di viaggio. L'associazione è in cerca di una volontaria perché la sistemazione è con altre ragazze. Per saperne di più, serviziovolontarioeuropeo.it. Per candidarsi c'è tempo fino al 28 febbraio. L'altra Europa. Freedom of movement and peace. That's what the overwhelming majority of people see as the main benefits of being in the EU. And a massive 72% believe that what unites Europeans is more important than what separates them. These are among the findings of a Eurobarometer. Quello che state ascoltando è un video relativo a Eurobarometro, che è il sondaggio, l'intervista che viene fatta annualmente per sondare il polso della situazione all'interno dei 28 Stati membri. C'è stata la presentazione dei dati, come sempre sono numeri, come sempre sono fotografie, come sempre sono così flash, anche contraddittori tra di loro, e a seconda della notizia che vai a sottolineare c'è l'ottimismo, c'è il pessimismo. Eccolo il cauto ottimismo che in Europa pare cominci a diffondersi nuovamente, con il 51% degli europei che dice di avere fiducia nel futuro. In Italia invece gli ottimisti sono di meno, sono il 40%. Ma sempre in Italia la maggioranza assoluta, per la prima volta, il 53% del campione italiano, dice di non sentirsi un cittadino dell'Unione Europea, un dato importante a 3 mesi dalle elezioni. Questa fotografia rappresentata dai dati di Eurobarometro la vogliamo commentare, e lo facciamo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto ad Angel Beremlinski della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Angel, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, sono sempre attesi con un po' di timore, vero, questi dati, perché sì, insomma, non sono numeri, come già ho detto, no? I numeri come sempre sono interpretabili, però danno delle tendenze importanti. Siamo in un periodo delicato perché ci stiamo avvicinando alle elezioni, perché l'euroscetticismo sembra dilagante e dilagare, e quindi so che erano ci sono sempre un po' di brividi legati alla presentazione di questi numeri. E dal punto di vista istituzionale, delle istituzioni che anche tu rappresenti, qual è stato il primo commento, qual è stata la prima reazione? Cosa si capisce da questo Eurobarometro? Questo è vero, ovviamente siamo ancora in una crisi che è perdurante, anche se ci sono appunto dei segnali positivi, l'abbiamo visto anche ieri sul dato relativo al prodotto interno lordo italiano, però il dato di fatto è ovviamente confermato, nel senso che c'è una sfiducia aumentata dovuta all'impatto di questa crisi che ormai appunto si sviluppa da qualche anno. Quello che emerge da questo Eurobarometro, l'Eurobarometro come dicevi anche tu, è il più grande sondaggio fatto nel mondo, perché è un sondaggio che riguarda più di 30.000 persone contemporaneamente, ovviamente sono campioni selezionati sulla base anche della grandezza dei paesi, certo. È un sondaggio paneuropeo. Quello di cui si sente più spesso, di cui stiamo parlando, è l'Eurobarometro standard, che appina a quelle domande fisse sul sentimento di fiducia, anche su come ci si rapporta alle istituzioni europee, anche domande di attualità come per esempio adesso la situazione economica. Sì. E quello che è il punto che colpisce di più è chiaramente che questa crisi continua a dominare anche i pensieri e le preoccupazioni degli italiani e degli europei. Gli italiani pensano che la disoccupazione sia il principale problema a cui bisogna dare assolutamente risposta. Ma è un problema solo gli italiani, lo dico? No, non credo. Allora, in realtà è un po' una piccola differenza rispetto alla media europea. Gli italiani ritengono che la disoccupazione sia per l'Europa in questo momento il problema più importante, mentre gli europei ritengono che sia, ma la differenza è di poco, sì, che sia la situazione economica generale, okay, mentre la disoccupazione retrocede al secondo punto. C'è una differenza invece per quanto riguarda gli altri elementi, che sono per gli italiani invece la pressione fiscale e l'inflazione, mentre per a livello europeo l'inflazione è quella che preoccupa di più, quindi l'aumento dei prezzi. La pressione fiscale è invece molto molto più indietro, questo ovviamente non ha bisogno di commenti, certo, soprattutto per quanto riguarda l'Italia. Angel, ma il rapporto con le istituzioni, che credo sia un altro nodo cruciale, c'è fiducia o non c'è fiducia nei confronti di chi governa l'Europa? Come dicevamo prima, nella fase di crisi è normale, anche se preoccupante chiaramente, il calo di fiducia generale che si osserva. E questo calo di fiducia riguarda tutte le istituzioni, non soltanto le istituzioni europee, ma anche le istituzioni nazionali, le istituzioni regionali, insomma tutti i livelli di appartenenza. Ecco. Quello che invece c'è una flessione chiaramente che riguarda anche le istituzioni europee, la Commissione europea per esempio passa dal 35 al 32%, il Parlamento europeo, che appunto sarà, come ricordavi tu, rieletto tra pochi mesi, passa dal 41 al 36%, la Banca Centrale europea, forse anche complice il fatto che sia guidata da un italiano, invece aumenta per quanto riguarda la fiducia degli italiani, passando dal 28 al 31%. Okay, insomma, ma queste istituzioni rimangono comunque tre volte più, con un livello di fiducia di tre volte superiore a quello per esempio delle istituzioni nazionali. Questo è significativo, quindi, insomma, si crede di più agli organi europei che a quelli italiani. Poi ci sono altri dati importanti, perché c'è comunque un desiderio non di meno Europa, ma di più Europa, di un'Europa che possa essere più vicina veramente ai cittadini, no? Questi dati indicano questa contraddizione. E credo, cifra inquietante, 3 italiani su 4 si ritengono non informati sulle questioni europee. Noi cerchiamo di farlo quotidianamente qui a Radio 24, però c'è proprio sete di conoscenza. Esattamente, questo è il dato, forse anche uno dei nodi principali del sondaggio, che emergono dal sondaggio. Tu anche all'inizio introducevi il sondaggio, appunto parlando del fatto che gli italiani si sentono meno cittadini europei. C'è un aumento della distanza rispetto all'Europa e c'è una richiesta allo stesso tempo di un'Europa più vicina, più concreta. Noi diciamo di un salto di qualità da parte delle istituzioni europee, da parte delle politiche europee che producano risultati concreti per i cittadini. E questo è evidente appunto nel fatto che appunto c'è una diminuzione del sentimento di cittadinanza, una crescente percentuale di italiani che dicono di non ritenere che la loro voce venga ascoltata a livello europeo. Questo anche in controtendenza, il dato italiano è anche più basso rispetto alla maggior parte dei paesi europei. Questo credo che è anche un po' il mito del ruolo dell'italiano, che è sempre un po', almeno agli occhi degli italiani, ridimensionato a livello europeo. Questo sicuramente con le elezioni europee, soprattutto col semestre di presidenza italiana, quando per 6 mesi l'Italia sarà presidente a partire da luglio dell'Unione Europea, sicuramente cambierà, e forse nei prossimi sondaggi Eurobarometro questo sarà più evidente. Sarà misurato. Però quello che la causa qui, bisogna fare un po' autocritica un po' tutti, perché da una parte c'è il 75% che dice appunto di essere poco informato sulle questioni europee, di avere meno interazioni anche con altri europei. Questo è anche un dato che vede l'Italia un po' meno attiva rispetto ai loro... Quindi sicuramente più mobilità, perché comunque l'informazione alla fine passa attraverso il fare, l'incontrarsi, il costruire progetti insieme. Grazie davvero ad Angel Beremlinski della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Sulle pagine europar.europa.eu ci sono tutti i dati relativi ad Eurobarometro, quindi potete divertirvi e viaggiare tra tutti questi numeri. Ciao Angel, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Ciao, alla prossima. Europost-it. LIS, lascia il segno. Il video della campagna ACT, React, Impact per promuovere la partecipazione alle elezioni europee del 22-25 maggio 2014 ha ora la sua versione accessibile anche ai non udenti. L'idea nasce all'interno della campagna promossa dal programma Gioventù in Azione della Commissione Europea in nome dell'accessibilità. La campagna poi ad aprile si arricchirà di ulteriori contenuti e vedrà come protagonisti ragazzi con disabilità sensoriali, non udenti, non vedenti e ragazzi in affidamento ai servizi sociali del Ministero della Giustizia. La realizzazione è affidata a un gruppo di associazioni ed enti pubblici di Sicilia, Marche e Lombardia. Tutto il materiale video sarà tradotto in linguaggio dei segni e il materiale informativo cartaceo rimanderà tramite il codice QR alle pagine parlanti del sito internet per non vedenti. Per conoscere tutti i contenuti andate sul sito della campagna Lascia il segno in Europa. No sitting down on your butt, the world don't owe you. No sitting down in a rut, I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way. G 59,81 miliardi di euro. Avete capito? 59,81 miliardi di euro. Questi sono stati i fondi concessi dall'Unione Europea all'Italia nel periodo 2007-2013. La maggior parte di questi fondi non sono stati utilizzati per una diffusa carenza di progettazione, difficoltà, la scarsa diffusione della lingua inglese, una mancata conoscenza delle opportunità offerte dall'Unione Europea e dagli obiettivi, perché ci sono complessità burocratiche. Da questi dati è partita la campagna lanciata dal Parlamento Europeo React for Fund, fondi utilizziamoli al meglio, progettiamolo insieme, un percorso in 5 tappe per far capire quanto Europa è creativa, Erasmus Plus, Horizon 2020, che sono i programmi che ci accompagneranno, che accompagneranno l'Europa tra il 2014 e il 2020. Agire, reagire, decidere, questa è la campagna in vista delle elezioni europee. Queste 5 tappe portano proprio a scoprire come portarsi a casa questi fondi, come progettare. Sono giornate di lavoro molto interattive, molto concrete. Con noi c'è Federico Bussi, formatore per la progettazione europea e facilitatore della progettazione partecipativa, uno dei protagonisti della giornata di venerdì a Roma. Ciao Federico, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie, saluti a tutti. Facilitatore è una bella parola, perché ti prende per mano solitamente il facilitatore, ti stimola, ti accompagna, non lavora per te, ma lavora con te. Cosa vuol dire essere un facilitatore in ambito della progettazione europea? Vuol dire fondamentalmente fare sì che diverse culture, istanze, linguaggi, modi di vedere il mondo possano collaborare proficuamente e anche in modo efficace per poi arrivare al risultato che è quello di confezionare questi, nel campo della programmazione europea, questi progetti, queste bozze, stesure di progetti secondo alcuni canoni che sono quelli che sono richiesti poi nei bandi europei. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia, le coordinate per trovarci su Facebook e su Twitter. Siamo ancora in compagnia di Federico Bussi, formatore per la progettazione europea. Stiamo parlando della giornata che si è tenuta ieri, la Sapienza di Roma, dove Bussi ha coordinato una parte di simulazione di utilizzo dei fondi europei durante la giornata React for Fund. Fondi, utilizziamoli al meglio, progettiamoli insieme. Federico, cosa hai tentato di trasmettere a questi addetti ai lavori? Perché immagino fossero tutte persone più o meno coinvolte in vari ambiti nella progettazione europea. Si può fare una sorta di decalogo, di algoritmo, di punti chiave attraverso i quali passare per fare un buon progetto europeo? Quello che abbiamo fatto ieri non sempre erano addetti ai lavori, a volte erano anche persone, operatori, insegnanti, professori universitari, esperti che però si affacciavano per la prima volta alla logica dei fondi europei, perché una cosa va detta chiaramente, quando si parla di fondi, ieri abbiamo parlato di fondi europei a gestione diretta, cioè quei programmi che per rispondere ai quali, per avere il finanziamento, si fa la domanda direttamente a Bruxelles, quindi in lingua inglese e con partner di diversi paesi. Questo è diverso invece da, come dicevate anche prima nella trasmissione, da quei fondi che invece l'Unione Europea assegna all'Italia come Stato membro e poi l'Italia, le regioni, i ministeri li gestiscono direttamente. Nel caso dei fondi diretti invece c'è un po' una filosofia nella quale bisogna entrare. E quindi ieri abbiamo cercato di far capire qual è un po' il senso e la filosofia di questi progetti, perché i fondi in quanto tali non sono enormi quelli che offre Bruxelles. Bruxelles, sì. Soprattutto però cercano di rafforzare quello che è il, diciamo così, lo spirito europeo e di collaborazione fra università, enti, aziende di tutta Europa, e quello di fare anche in piccolo degli esperimenti però efficaci, innovativi, di successo, che poi possono essere portati all'attenzione di tutti gli altri operatori, decisori, sì, politici che operano in Europa su quel campo. Questa è, diciamo così, la filosofia fondamentale dei programmi europei a gestione diretta. Mm-hmm. Ma tu cosa consigli? Qual è il primo passo da fare? Rivolgersi a chi? C'è proprio una porta d'ingresso, non dico privilegiata, consigliata? Sì, oggi come oggi la maggioranza dell'informazione si trova già disponibile su internet. Mm-hmm. Certo, leggere un documento in inglese su un programma europeo, se uno non è avvezzo a quel linguaggio lì, al di là dell'inglese, molto spesso sono anche in italiano, può essere un po' ostico. Ci sono dei punti informativi che si chiamano Europe Direct, sì, in molte città, però la cosa migliore senz'altro è comunque scaricarsi i PDF dai siti e cercare di interpretarli, magari con l'aiuto di qualcuno che lo ha già fatto e c'ha un po' più di esperienza. Uh-huh. Il fondamentale è capire quello che si chiama il bando in inglese, poi nel linguaggio la chiamano la call, sarebbe call for proposals. Sì. Bisogna capirla, insomma, leggerla con calma, mettersi seduti e capire quali sono fondamentalmente le cose che vogliono, le cose che chiedono e che si aspettano per poi dare il finanziamento. Federico, al di là della burocrazia, al di là del bando, al di là della call, qual è però l'approccio mentale che bisogna avere a questi bandi? Cioè, cosa vuol dire pensare in chiave europea? Perché credo che sia questo un nodo cruciale, mettersi sì attorno a quel tavolo leggendo il bando e cercare di interpretarlo, però poi deve scattare qualcosa di nuovo nell'andare a ideare un progetto. Guarda, la cosa fondamentale è, secondo me, i due, diciamo così, tratti culturali fondamentali sono quelli: uno, della collaborazione in partenariato transnazionale, quindi ecco, bisogna entrare nella cultura di appunto avere questi partner transnazionali che sono enti, istituti, società, imprese molto simili a quelle alle proprie, con le quali si fa un qualcosa insieme, e quindi ecco, questa è una cultura che spesso in Italia non abbiamo, quella della partnership transnazionale. E l'altro è quello di pensare sempre appunto che i nostri risultati, i nostri piccoli risultati, piccoli nel senso che sono quelli della scala nella, sì, quale lavoriamo, che magari sarà quello di un'associazione giovanile o di un'impresa, un raggruppamento di imprese, devono valere per tutta l'Europa, devono essere, come si dice nel linguaggio tecnico, devono essere delle best practice, delle buone pratiche divulgabili e di cui noi siamo anche responsabili di questa divulgazione, divulgabili a livello europeo, ecco, che facciamo una cosa che non la facciamo solo per noi, ma la facciamo in prospettiva per tutta l'Europa, perché siamo esempio per tutta l'Europa. Questi secondo me sono i due tratti fondamentali, se vi dovessi riassumere, nelle quali si differenzia poi il progetto europeo invece dal finanziamento, certo, ecco, del fondo diretto, che invece è quello che serve poi per costruire le strade, sì, le infrastrutture, le opere, certo, infrastrutturali. Uh-huh. Sono quelli che abbiamo perso, quelli di cui citavi prima, sì, quelli abbiamo perso, non abbiamo usato. Grazie davvero Federico, insomma hai dato due linee fondamentali, comunque pensare in chiave che ci sono anche dei partner, ci sono anche gli altri, pensare a queste buone pratiche che vuol dire andare al di là del proprio orticello, vuol dire non aver paura, la tua idea può essere copiata, perché se viene replicata non è stata copiata, ma è diventato uno stimolo per altro. La commissione finanzia proprio affinché la tua idea poi venga copiata, riprodotta, diffusa. Grazie davvero a Federico Bussi, ricordiamo che tutta la campagna di Agire, Reagire, Decidere lanciata dal Parlamento Europeo si può trovare sul sito europarle.it. Grazie Federico, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Europost-it. Tirocini all'autorità per la sicurezza alimentare. L'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, dà la possibilità di svolgere tirocini retribuiti della durata di 6 o 12 mesi nel campo della comunicazione, nel settore più prettamente scientifico e nell'amministrazione. Possono candidarsi tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi aderenti. I tirocinanti selezionati riceveranno un contributo mensile di circa 1.000 euro e potranno svolgere le attività formative in una delle sedi dell'autorità anche in Italia. Per alcuni posti la scadenza è il 28 marzo, per altri si può presentare domanda in qualunque periodo dell'anno. Ma affrettatevi, perché i posti in totale sono 25. Per saperne di più o candidarsi, andate sul sito dell'EFSA, efsa.europa.eu, e guardate nella sezione Careers. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move non è, non vi, va, non vi mandiamo in Madagascar, ci accontentiamo di mandarvi in giro per l'Europa, perché la mobilità è un altro punto cruciale di questa Europa che vogliamo, di questa Europa delle opportunità, e continuiamo quindi a narrarvela, perché ieri è partita anche un'altra iniziativa, la prima di 13 tappe per far conoscere in Italia Erasmus Plus. Questo tour nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia Nazionale Giovani ed Eurodesk Italy. Con noi c'è Ramon Maggi di Eurodesk. Ciao Ramon e benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Allora, che cos'è intanto Eurodesk? Eurodesk è una delle strutture del programma Erasmus Plus, in particolare è quella struttura che ha il compito di informare e orientare i giovani sull'utilizzo del programma, con particolare attenzione sullo strand gioventù del programma stesso. Uh-huh. Allora, c'è un portale che tra l'altro vi consiglio perché è ricco, aggiornato e molto ben fatto, che è eurodesk.it, però non siete solo una presenza virtuale, giusto? No, no, anzitutto siamo una presenza sul territorio, abbiamo circa 100 agenzie locali sparse su tutto il territorio nazionale, di solito all'interno dei centri dedicati all'informazione dei giovani o dell'Europa, come Informa Giovani, Punti Europa, Ufficio Europa, e il nostro compito principale, oltre a quello di diffondere l'informazione appunto attraverso il web, attraverso tutti i canali social, è di fare l'orientamento sull'utilizzo dei programmi, che viene fatto proprio da personale nelle agenzie, che permette di passare dal capire che esiste un programma a cercare di capire come presentare la domanda, il formulario per ottenere poi un finanziamento. Mm-hmm. Erasmus Plus ovviamente è il programma che più pensa ai giovani nelle sue mille sfaccettature, no? Perché Erasmus non è solo andare a studiare, ma è lo sport, ma tutte le attività culturali che sono state presentate anche proprio da pochi giorni presso l'Agenzia Nazionale Giovani. Ieri a Cosenza, la prima tappa di questo viaggio attraverso l'Italia, qual è l'idea e cosa state raccontando? Dunque, la prima è stata proprio a Cosenza, come ricordavi, c'erano più di 100 persone a partecipare, in maggior parte giovani o in rappresentanza di associazioni giovanili, ma anche appunto scuole, qualche nuova società che interessa, diciamo, a verificare come i fondi europei per la mobilità possono aiutarli. L'idea fondamentalmente è quella di fare una presentazione durante la mattina, piuttosto generale su tutto quello che questo nuovo programma offre. Lo dico per inciso, probabilmente l'avete detto anche altre volte, Erasmus Plus è la somma di altri programmi che sono sviluppati negli ultimi 20 anni in Europa e mette insieme le due facce della medaglia dell'istruzione, cioè l'istruzione formale e non formale, quindi certo. offre diciamo, una grande varietà di opportunità. Nel pomeriggio questi info day si sviluppano poi con un primo lavoro sulla progettazione nello strand gioventù, quindi ci occupiamo poi della parte che riguarda il volontariato, gli scambi, la formazione degli animatori socioculturali per gli scambi, tutta una serie di attività che hanno a che fare col vecchio programma Gioventù in Azione, e cerchiamo soprattutto di mettere in evidenza le novità che ci sono rispetto al passato, perché altrimenti si rischia al primo anno di fare magari degli errori formali che invalidano il progetto perché uno è abituato a progettare in un certo modo e non riesce a capire magari quali sono subito le novità. Perfetto, guarda, direi che per ora basta, perché ci piaceva intanto raccontare questa iniziativa. Eurodesk.it per tutte le informazioni, ma magari ci sentiamo nelle prossime settimane, perché vogliamo capire anche noi come poter accedere a questi fondi, come i giovani possono partecipare a questi programmi. Grazie davvero, Ramon, grazie a te e a tutto il tuo team. Ciao e buon sabato. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione, come si suol dire. Grazie davvero. Adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Vai a quel paese, parte la campagna per il volontariato in Moldavia e Romania. Hanno scelto un nome scherzoso i volontari dell'associazione Bambini in Romania per la campagna di ricerca di nuovi volontari internazionali che abbiano intenzione di passare 2 settimane a fare volontariato tra i bambini negli istituti e negli orfanotrofi. Non è richiesta nessuna esperienza particolare, ma solo una buona motivazione e un'età minima di 16 anni. Dal 1999 ad oggi sono già partite più di 2000 persone. Siete interessati a partire per Moldavia Romania? Le iscrizioni sono aperte e terminano il 7 aprile. Trovate tutte le informazioni su bambiniromania.it. L'altra Europa. La bicicletta, la bicicletta, che voy a hacer sin mi bicicletta? Me robaron mi compañera, pues pucha, ¿qué hago? Para irme al trabajo, tú eres mi rueda, la que me lleva a todo lado, mi bicicleta. Tranquilo viejo, la vida es como montar bicicleta. Hay que alzar la cara y andar siempre alerta. Ring, ring, siempre alerta, bro, siempre alerta. La bicicleta. Un divano dove lui si siede in mutande, si fa ritrarre mentre beve birra e mangia patatine davanti alla TV. Un sito internet il cui titolo è Niek è solo e senza lavoro, e spiega che assumerlo è comunque un risparmio, perché Niek prende il caffè senza zucchero e senza latte, perché Niek consuma poco, perché Niek non ha tante pretese. E questa è la storia di Niek Goren, un olandese che grazie a questo sito internet poi ha trovato lavoro, e forse anche guardando questo sito è nata l'idea di fare una pedalata, una lunga pedalata, 35 giorni in bicicletta da Pavia a Gibilterra attraverso una rete di piste ciclabili o comunque di strade consigliate dall'Unione Europea, così una pedalata per trovare lavoro o perlomeno per riflettere sul proprio futuro. Questa è in sintesi la storia di Riccardo Cambiaghi, autore del blog 500.000pedalate.blogspot.it, che proprio in queste ore sta pedalando verso Gibilterra. Ciao Riccardo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Tu... Grazie per la musichetta tema. È vero, l'abbiamo scelta per te. Tu sei un ex tour operator, tra l'altro anche un ex operatore di accoglienza Erasmus, quindi anche tu hai un passato legato all'Erasmus, dove se non erro hai conosciuto la moglie tedesca, quindi sei una storia... Assolutamente, perciò ho un passato e un presente che mi lega all'Erasmus e mi lega a tutte le tematiche europee. Guarda. E adesso me la sto godendo sulla strada, l'Europa. Te la stai godendo sulla strada dopo che hai perso il lavoro, e sì, cos'è sì. scattato? In quel momento è scattata, diciamo che la disoccupazione è una brutta bestia, perché dopo 25 anni di lavoro ti trovi da un giorno all'altro sul divano. Sì. E sul divano non volevo rimanere. Il primo mese passa abbastanza velocemente, perché riesci a recuperare delle cose che hai trascurato durante tutti gli anni che hai passato in ufficio dal mattino alla sera. Dopodiché inizi a cercare lavoro attraverso i metodi più classici. Quando le cose non si sbloccano c'è il rischio di piangersi addosso. Insomma, ero arrivato a un punto, anche se tra mesi qualcuno mi diceva che non fossero tanti, ma ero arrivato a un punto in cui ho detto che devo dare una scossa. Io ho due passioni, viaggi, il turismo e la bicicletta, perciò ho detto è l'occasione giusta per abbinare le due cose e mettermi sulla strada. Ho il tempo per farlo, ho la voglia di farlo, è l'occasione per svuotare la mente, cercare nuove idee e vedere se nel mio futuro riuscirò ad abbinare viaggio e bicicletta anche dal punto di vista professionale. Ma e tra una pedalata e l'altra stai mandando curriculum? Sto mandando curriculum, ma la sera, le mie serate sono molto intense, io temevo la noia, diciamo, dei momenti in cui non pedalavo, ma tra la scrittura degli articoli che mando sul blog e la ricerca del lavoro che continuo a fare, perché grazie al cielo internet mi permette di fare quello che facevo quando ero sul divano di casa, continuo nella mia ricerca. Diciamo che questa pedalata un po' ha svegliato un po' di interesse, perché se in 3 mesi precedenti non avevo ricevuto nessuna proposta, in questi giorni, diciamo, qualche cosa forse si sta muovendo, perciò sono molto contento anche da questo punto di vista. Hai scelto di pedalare sulle piste di Eurovelo, ci vuoi dire che cos'è, anche perché questa scelta, che è una scelta assolutamente europeista? Assolutamente, Eurovelo è un network di reti transnazionali che attraversa l'Europa da est a ovest e da nord a sud. Io al momento sto seguendo la Eurovelo numero 8, che è la strada del Mediterraneo che, partendo dall'Egeo, arriva fino all'Atlantico, seguendo tutte le coste dei Balcani, taglia la pianura padana e riprende il Mediterraneo in Liguria e mi porterà fino a Gibilterra. Diciamo che seguire questa via è la cosa più naturale, perché mi porta proprio alla mia destinazione. Non è sempre semplice, perché questo Eurovelo coordina, diciamo, le piste ciclabili regionali e in alcuni punti è molto ben segnalata, in altri punti proprio si perde e ci si trova in strade con grande traffico. Beh, sembra un po' una metafora dell'Europa, dai. È vero? Assolutamente, però no, diciamo che l'Europa serve anche per questa cosa. La mobilità in bicicletta è una risorsa da sfruttare in ogni modo. E la pista ciclabile, la ciclovia, ti permette di gustare tutto, perché non hai il problema del traffico, non hai lo stress di seguire dei cartelli stradali che sono studiati per le macchine, non per le biciclette, che ti portano verso autostrade, verso strade a scorrimento veloce. Quando uno si trova su una ciclovia o su una pista ciclabile è puro relax, è puro divertimento, pura voglia di fermarsi, di conoscere gente, di vedere i posti meravigliosi che sto attraversando. 500.000pedalate.blogspot.it, ricordo, è il blog che racconta questa avventura. Riccardo, sei a metà del viaggio più o meno? All'incirca, adesso mi trovo circa 60 km da Barcellona, sono a Malgrado de Mar, una giornata estiva, non so da voi, ma qua sono in maglietta. Questa sera arriverò a Barcellona e domani mi prendo il primo giorno di riposo. Non conosco Barcellona, perciò ho l'occasione di fare il turista, tra virgolette, normale, senza la bicicletta, domani. Dopodiché riparto verso il sud. E che Europa hai respirato in queste... Ho respirato un'Europa bella, un'Europa fuori dai grandi circuiti. Ho scoperto che il viaggiare in bicicletta ti permette di fare un turismo diverso. Spesso passi accanto a delle città, ma che sono a 10 km di distanza, perciò 10 km in bicicletta possono essere tanti dopo che ne hai pedalato magari un centinaio, perciò le eviti. Però vedi tanta Europa normale, ma mi piace vedere le scuole, i bambini che escono, mi piace vedere i bar con i vecchietti del paese che giocano in Francia a pétanque, qua giocano a carte, mi piace vedere i confini, nel senso che come da un confine all'altro cambiano le cose, però hai qualcosa che ti fa sentire comunque sempre a casa. Questa è la sensazione più bella che ho avuto da questo viaggio, cioè un continuo cambiamento lento ai confini, un cambiamento più deciso, però sempre questo sentimento di casa, di appartenenza. Certo. Assolutamente. Grazie davvero Riccardo, in bocca al lupo per la tua pedalata, per la parte turistica, per la parte professionale anche, speriamo. Grazie mille a te Federico. Buona Europa. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Europostit. Volontariato proprio per tutti. Get Your Way, Trova la tua strada, è un progetto destinato ai ragazzi che vivono una situazione di marginalità sociale, di criticità cognitiva o di disagio mentale, che gli consentirà di fare un'esperienza all'estero ed acquisire competenze da spendere nel mondo del lavoro. Il progetto è rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni ed è promosso dal Centro Servizi per il Volontariato di Rimini, insieme con quelli dell'Emilia-Romagna, delle Marche e di Reggio Calabria. Le principali destinazioni sono Blackburn, Londra, Granada, Ankara e Creta. Qui i ragazzi potranno svolgere, accanto ad esperienze professionalizzanti come corsi di lingua e stage, anche altre attività come teatro, musica e visite culturali. I posti sono 125 e si partirà in gruppi di 5 con due accompagnatori. Per fare richiesta di partecipare c'è tempo fino al 14 marzo. Trovate tutte le informazioni su volontariamo.com. Questi sono i nostri Europost-it che potete riascoltare sul nostro sito radio24.it. Un grazie per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra, Katia Marinelli e Margherita Aina, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza alla parte tecnica, oggi Carmelo Lauricella. Ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, gli account, ve li ricordo ancora, Euronet Plus, R24, oppure il mio personale, chiocciola Federico Taddia. Ancora buon sabato, ciao! L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.